Il problema è questo: il BJP ha impostato la propria campagna elettorale sullo slogan India Shining, l'India che luccica, l'India che brilla. Brilla perché? Per i grandi progressi economici raggiunti sotto la leadership del BJP. In effetti, se andavano a vedere gli indici macroeconomici, si vedeva che l'India nel corso del 2003 era cresciuta di oltre l'8%, 8-10%, quindi era stata l'economia che era cresciuta più rapidamente a livello mondiale dopo quella cinese. Alcuni dati rilasciati alla vigilia delle elezioni, ma dati secondo me non del tutto degni di fiducia, parlavano addirittura di una crescita di oltre il 10%, il che sarebbe stato a significare che l'India era cresciuta ancora più rapidamente della Cina, quindi aveva avuto il massimo sviluppo economico, cioè per meglio dire la massima crescita economica dell'anno appena concluso. Ecco, la campagna elettorale è stata impostata su questo ed è stato un errore catastrofico perché nel fare questo il BJP ha dimostrato di credere nella sua stessa propaganda, perché è vero che se si andavano a vedere gli indici macroeconomici c'era stata questa forte crescita, ma è altrettanto vero che era una crescita che aveva beneficiato una parte sì consistente, ma in definitiva ristretta della popolazione, cioè che aveva beneficiato certi strati urbani, in certi settori di punta. Per esempio l'India è fortissima nel campo dell'information technology, cioè nel campo della produzione di software o nel campo dei servizi finanziari. Altri settori che sono cresciuti molto rapidamente è il settore, per esempio, dell'intrattenimento, della cinematografia, nello stesso settore alberghiero. Ecco, questi settori erano cresciuti molto rapidamente e avevano scremato una parte consistente dei guadagni di questa crescita economica, ma sono settori ristretti, anche se consistenti, cioè diciamo che secondo alcuni calcoli circa il 10% della popolazione aveva beneficiato da questo progresso economico, il che non è poco, nel senso che il 10% della popolazione indiana significa 100 milioni, un po' più di 100 milioni in effetti, ma il resto della popolazione era per così dire rimasta al palo. In alcune sacche dell'India rurale addirittura c'era stato un peggioramento della situazione della popolazione, perché questo tipo di crescita basato sullo sviluppo neoliberistico è un tipo di crescita che è per definizione squilibrato, che favorisce certi settori della popolazione ma spesso svantaggia altri. Allora, il grosso della popolazione indiana in realtà non è progredita, alcuni piccoli settori sono addirittura andati indietro. Ecco, si sono trovati di fronte a questa aggressiva campagna elettorale. Ecco, io credo che questo abbia provocato un'ondata di risentimento in certi strati della popolazione. E l'elettore indiano è un elettore che da molti anni ormai ha imparato a votare contro. Cioè, l'elettore indiano sa che non può votare in certi casi proprio per il partito per cui vorrebbe votare, perché nel sistema uninominale, maggioritario puro che esiste in India, fare questo può voler dire sprecare il proprio voto. Però l'elettore indiano ha imparato a votare contro, cioè vota per il partito che ha più probabilità di battere il partito contro il quale questo elettore si pone. Quindi io credo che strati consistenti della popolazione, come dire, urtati dalla propaganda del BJP, abbiano deciso di votare contro il BJP. E siccome in gran parte dell'India votare contro il BJP con speranza di successo significava votare per la coalizione capeggiata dal Congresso, questi elettori hanno votato, hanno aggiunto il loro voto a quello dei tradizionali seguaci del Congresso, e questo ha degenerato, ha generato questo imprevisto cambiamento di prospettive. C'è stata questa inaspettata vittoria del partito del Congresso e della coalizione adesso legata. Cambiamenti per quanto riguarda la politica estera non ce ne saranno, perché la politica estera è sempre stata sostanzialmente bipartisan, sia l'opposizione sia la maggioranza vogliono, qualsiasi sia l'opposizione, qualsiasi sia la maggioranza, vogliono una politica rispettosa degli interessi nazionali e una politica che faccia riferimento al fatto che l'India è una grande potenza che ha degli interessi da difendere. E questa percezione si è tradotta nel fatto che l'India ha costruito una serie complessa di alleanze e di buoni rapporti con una serie di stati asiatici, l'Iran, una serie di repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, la Russia, recentemente la stessa Cina e i paesi dell'ASEAN, del sud-est asiatico. E negli ultimi tempi c'è stata anche un'apertura di trattative con il Pakistan. Ora, questo tipo di politica non cambierà e io credo che non cambierà neppure il fatto che il nuovo governo manterrà una certa distanza dagli Stati Uniti, cioè i rapporti con gli Stati Uniti rimarranno formalmente buoni, ma come adesso non saranno rapporti così entusiastici come erano fino all'invasione dell'Iraq. Cioè, dopo l'invasione dell'Iraq, la classe dirigente indiana ha incominciato a preoccuparsi, ha incominciato a pensare che in una situazione in cui gli Stati Uniti avevano la volontà e la capacità di agire senza tener conto del consenso internazionale, si era determinata una situazione di pericolosità. Per cui bisogna prendere le distanze dagli Stati Uniti, anche se cautamente, e bisogna perseguire appunto un altro tipo di politica, una politica focalizzata sulla necessità di risolvere i problemi con gli Stati vicini per vie bilaterali, senza creare crisi di maggiori proporzioni. Allora, la politica estera continuerà ad essere questa, non cambierà. Ci sarà un certo cambiamento, io credo, necessariamente nella politica economica, perché bene o male coloro che hanno votato per il Congresso hanno votato per il Congresso o per i suoi alleati perché sono scontenti di questo tipo di sviluppo economico che non tiene conto delle esigenze degli strati più poveri della popolazione. Allora, io non credo che il Congresso cambierà in maniera drammatica questa politica neoliberista che fra l'altro a suo tempo era stata iniziata dallo stesso Congresso nel 1991, ma certamente introdurrà una serie di correttivi, di programmi ad hoc a favore degli strati più poveri della popolazione e probabilmente spingerà il freno sul processo di privatizzazione di certi gruppi pubblici che specialmente nel settore degli idrocarburi sono gruppi estremamente efficienti, estremamente produttivi che il BJP stava cercando di mettere sul mercato, di vendere a privati, che molto spesso poi erano privati che non erano neppure indiani, ma erano le grandi corporation internazionali. Ecco, questo tipo di sviluppo secondo me avrà fine. Un'ultima cosa, un ultimo cambiamento che ci sarà è che il Congresso, in ultima analisi, si riconosce in una visione laica dell'India, cioè si riconosce nell'idea che tutti i cittadini dell'India sono indiani, indipendentemente dalle affiliazioni di tipo religioso, mentre il BJP in definitiva è legato, è fortemente legato all'idea che gli unici veri indiani, gli unici indiani a partantiere, sono gli Hindu. Ecco, il BJP ha seguito una serie di politiche culturali per imporre questa idea, ha modificato il sistema di istruzione pubblica, ha fatto riscrivere i libri di storia, ha condotto una serie di manipolazioni. Il Congresso, sia pure con alcuni cedimenti, rimane una forza laica e queste posizioni laiche del Congresso sono state anche rafforzate dal fatto che ovviamente l'attuale capo del Congresso, Sonia Gandhi, è una cristiana e questo fa una differenza e Sonia Gandhi ha preso delle posizioni che sono state posizioni anche decisamente coraggiose su questa questione del laicismo. Fra l'altro, come dire, scusandosi con gli indiani per una serie di cedimenti che c'erano stati in passato nei confronti di questi ideali laici.